in primo piano. In questo lunedì 18 aprile le aperture le vediamo dai maggiori quotidiani. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, si dedica al risparmio, l'Italia del risparmio tradito. Si prende spunto dai casi del cosiddetto Madoff dei Parioli. E vedremo di che si tratta. Poi la vicenda ancora annosa di tensioni tra Italia e Francia sulla questione immigrati. La Francia ferma i treni dall'Italia, così apre il Corriere della Sera, mentre la Repubblica, immigrati, schiaffo francese. Per il Messaggero, Italia-Francia ancora scontro. Invece le nuove dichiarazioni, ennesime dichiarazioni del Premier Berlusconi contro i magistrati. Per La Stampa, il Premier, patto fini toghe, ho le prove, me l'ha detto un giudice. E per il Giornale, ecco il patto fini PM, c'è un testimone. L'Unità invece apre in prima pagina con un'intervista al presidente dell'AMPI, l'Associazione dei Partigiani d'Italia, Smuraglia, l'incubo deve finire, e l'incubo per l'Unità e Berlusconi. Anche per Il Secolo, immigrati, la Francia blocca i treni, queste le aperture. Da cosa voglio partire? Beh, voglio partire da due segnalazioni, la prima dal Corriere della Sera, a pagina 22, Elvira Serra racconta e va a intervistare Nicola Scanga. Chi è? È il preside dell'Istituto Tecnico di Brescia, quello che è entrato un po' nel centro dell'attenzione di questi giorni per questa vicenda di cronaca di questa ragazza pakistana costretta a restare a casa dalla famiglia perché troppo bella, una vicenda che si è conclusa con, per il momento, positivamente, nel senso che questa ragazza, Jamila, proprio oggi tornerà in classe. Ma il Corriere della Sera racconta, attraverso la voce di questo preside di frontiera, che si autodefinisce un preside di frontiera, una vicenda che ha dell'incredibile. Il preside di Jamila e gli immigrati: ho aiutato una ragazza ad abortire. I suoi non dovevano sapere, ma poi un altro cinese è sparito dalla classe. Ci sono botte tra etnie. Cioè, racconta questo preside in questa intervista al Corriere della Sera una scuola davvero di frontiera, dove quella di Jamila, la ragazza pakistana, è solo la punta dell'iceberg di quello che viviamo ogni giorno. Ed ecco qui questo snocciolare di storie davvero una più incredibile dell'altra. A ottobre, Danuwa, racconta questo preside, Danuwa è un nome di fantasia, una minorenne di colore, ci ha confidato che era incinta, voleva abortire senza dirlo ai genitori. Abbiamo chiamato il giudice e lui ha dato il consenso. All'ospedale l'ha accompagnata una mia assistente. E ancora Achala, che considera questo preside un padre, è indiana, ha problemi di anoressia, ha avuto una relazione clandestina con un giovane uomo indiano come lei, che ha dovuto tornare in patria a sposare la donna che gli era stata assegnata. Ora Chala non è più vergine, significa che non potrà mai essere data in moglie. Oppure Kuldev, anche lui indiano, 16 anni, un giorno si presenta a scuola pieno di lividi. Io non sporgo denuncia, preferisco parlare col padre perché non perdesse il posto di lavoro. Il padre arriva a scuola e mi dice che è stata la moglie a colpire il figlio in un attacco di epilessia, ma ho visto il figlio piangere. La verità è che vuole frequentare una ragazzina italiana e i genitori non sono d'accordo. E ancora Lucia, questa volta italiana, si presenta un giorno a scuola con segni di frustate sul corpo. Ieri abbiamo convocato la famiglia, nessuna risposta. Oggi, proprio il giorno in cui vi parlo, sarà la prima cosa di cui ci occuperemo. Insomma, poi storie di anche cinesi, un ragazzo cinese che voleva studiare ma è sparito, lavorava di sera e studiava di giorno. Ho fatto denuncia, si chiama Zhu, non ho più notizie, ho fatto segnalazioni, nessuno se ne occupa. Storie incredibili di questo istituto tecnico, di questo preside, raccontate al Corriere della Sera, il preside della scuola dove oggi Jamila tornerà a studiare. La seconda segnalazione dal Sole 24 Ore, 1000 euro a testa spesi per il gioco. Questa è la media, cari italiani, pro capite di quello che spendiamo per tentare la fortuna in uno di quei tantissimi giochi che ti vengono proposti, dal gratta e vinci a mille diavolerie del genere. A fronte dell'aumento delle somme cala la percentuale incassata dal fisco. Questo è uno studio che Rossella Cadeo spiega a pagina 14 insieme all'articolo di Maurizio Fiasco. È uno studio fatto all'interno della Consulta Nazionale Antiusura alla Commissione Antimafia. Insomma, ogni anno, cari italiani, spendiamo per tentare la fortuna e la buona sorte 61,4 miliardi di euro. E per il 2011, visto che il trend è in aumento, si potrebbe arrivare a 80 miliardi di euro spesi, una somma pari al 7% dei consumi privati. Qual è la provincia che pro capite è in testa per le spese? Con 2.125 euro a testa, Pavia, questo in Italia, davanti a Como con 1.504 euro giocati pro capite, terza Rimini, poi Teramo, Savona. Le grandi città c'è al 12° posto Milano con 1.235 euro, al 18° Roma con 1.160, poi Venezia al 37° posto con 1.022 euro, mentre Napoli al 50° posto è sotto la media di, è a 939 euro pro capite, la media, ripeto, è 1000 euro a testa spesi per il gioco. Questo trovate tutto con la classifica dettagliata a pagina 14 del Sole 24 Ore. Allora, iniziamo dalla politica, dal nuovo affondo che ieri il presidente del Consiglio Berlusconi ha fatto nei confronti della magistratura. Il Corriere titola pagina 2: Berlusconi attacca Fini e IPM. Era a una convention per Milano, insomma per le amministrative di Milano, al fianco del sindaco e candidato del centrodestra Letizia Moratti. L'accusa più grave, quella che ha fatto, che viene riportata da tutti i giornali e che è il titolo anche per alcuni giornali, è questo del pactum sceleris tra Fini e i magistrati. Cioè, ha detto Berlusconi, mi è stato raccontato parola per parola da uno dei giudici che aveva partecipato alle discussioni con lui, c'è un patto scellerato tra Fini e i magistrati. Il patto, secondo Berlusconi, sarebbe questo. Fini ha detto ai giudici, voi mi proteggete, perseguite Berlusconi e finché sono io alla presidenza della Camera vi garantisco che non passerà nessuna riforma che vi dispiaccia. Per questo finora non siamo riusciti a far passare una riforma della giustizia, così dice Berlusconi. Insomma, l'accusa è fortissima. Certo, come ha notato Repubblica, non è certo la prima volta in tutti questi anni che Berlusconi si scaglia contro i giudici, anzi Repubblica pagina 9 è andata a contare, basta mettere sui motori di ricerca Berlusconi contro i giudici e otterrete 2.330.000 voci, quello che Repubblica definisce uno sterminato archivio informatico delle frasi che Silvio Berlusconi ha ideato e confezionato in 17 anni di vita politica contro i giudici, da cancro della democrazia da estirpare, a talebani, giacobini schierati con i delinquenti, poi ci sono le accuse, diciamo, ad personam, come il PM De Pasquale definito famigerato, che avrebbe causato il suicidio dell'ex presidente dell'ENI Gabriele Cagliari, anche Ilda Boccassini, insomma Raimondo Mesiano, quello dei calzini turchesi. Insomma, non è la prima volta, ma certo l'attacco è molto forte. Fini si è risentito moltissimo, ha detto la reazione del leader di Futura Libertà porti le prove delle sue accuse, altrimenti dica, insomma, il nome del magistrato che avrebbe detto e fornisca le prove a sostegno delle sue parole, altrimenti gli italiani avranno la prova che non sa cosa significhi la parola vergogna. Anche i magistrati reagiscono. Tra l'altro, perché Berlusconi, non è la prima volta in questi giorni, è tornato ad attaccare pesantemente i giudici? Beh, è interessante leggere Ugo Magri sulla Stampa, in questo retroscena nel quale Ugo Magri, che uno molto vicino al Presidente del Consiglio, anche lui dice non si riesce bene a capire quale sia il motivo per cui Berlusconi abbia innalzato così l'asticella negli attacchi nei confronti della magistratura. Il Cavaliere stupisce perfino i colonnelli e i più stretti collaboratori, che si chiedono perché tanta rabbia. E scrive Ugo Magri, i primi a stupirsi delle smisurate ingiurie ai giudici sono proprio i collaboratori del Premier, i suoi colonnelli, magari quegli stessi personaggi che poi nelle dichiarazioni domenicali lo spalleggiano. Si domandano sottovoce perché Berlusconi abbia voluto battere proprio adesso tutti i record, lui che già ne aveva stabiliti parecchi. Altre inchieste in arrivo? No, non risulta. Nuove ragazze pronte a testimoniare su Ruby? Beh, più di quanto abbiano già raccontato le ultime due sarebbe impossibile. Insomma, le dietrologie non aiutano a capire il senso dell'escalation. Per cui, scrive Ugo Magri, bisogna battere strade più semplici, alcune banali. Il Cavaliere aveva un testo scritto, l'avevano preparato i suoi uffici, gli era pure piaciuto, ma poi è andato a braccio. e può darsi che l'ambiente a Milano lo stimolasse. Lì c'erano in prima fila Mario Mantovani, coordinatore lombardo del PDL, e Daniela Santanchè, che nel giro è nel giro del berlusconismo e che dice Ugo Magri ogni qualvolta si avvicina a Roma Berlusconi: Gianni Letta non farebbe mai avvicinare Berlusconi da due persone come Mantovani e Santanchè. Ma quando è a Milano, ecco che prendono il sopravvento, tra virgolette, Mario Mantovani e Daniela Santanchè, e i risultati, secondo Ugo Magri, si vedono. Dunque un po' stimolato anche dalle persone che gli sono attorno. Secondo Giuliano Pisapia, che invece è il candidato sindaco per il centro-sinistra a Milano, intervistato dall'Unità, Berlusconi cerca la rissa perché vede che Milano rischia di perderla, sa benissimo che questa volta può perdere la città, quella che considera la sua capitale, dopo oltre 20 anni di governo, ed ecco allora che vuole radicalizzare il dibattito politico. Quindi secondo Pisapia la lettura è questa. Intanto che sul fronte giustizia ci sia molta tensione, beh, lo testimonia anche questi manifesti che sono comparsi a Milano via le BR dalle procure, manifesti inquietanti su sfondo rosso. Ebbene, ieri, almeno stando a un'intervista nel quale si è autodenunciato l'autore, o meglio colui che dice "ci metto la faccia", quei manifesti sono stati commissionati dalla mia associazione, è tale Roberto Lassini, avvocato, 50 anni, ex sindaco, finito anche in mani pulite, arrestato, poi rimasto 42 giorni in carcere con l'accusa di tentata concussione, un'accusa che dopo 5 anni è finita nel nulla, è finita col proscioglimento, e ora è presidente di un'associazione dalla parte della democrazia che ha firmato quei cartelloni e che ieri appunto in un'intervista al giornale ha detto "sono io che ci metto la faccia", effettivamente uno slogan esagerato, ma mi assumo la responsabilità politica di questo fatto. Sta di fatto che in realtà questo stesso Lassini ha detto di non sapere chi abbia materialmente fatto, commissionato e fatto affiggere quei manifesti per Milano. E sta di fatto che l'altro caso è politico, è che questo Lassini è ora candidato al Consiglio Comunale di Milano per il centrodestra, con la Moratti che ha preso subito le distanze, ma lui che dice "non smentisco di essermi autosospeso dalle liste, rimango in lista", e dunque c'è anche questo caso politico sui manifesti anti-giudici, così come c'è un caso dal fatto che il cardinale di Milano Dionigi Tettamanzi ieri nella sua omelia ha fatto quella che il giornale definisce l'omelia ad personam di Tettamanzi, questa frase di Tettamanzi: "quelli che agiscono con ingiustizia ma non vogliono che la giustizia giudichi le loro azioni, perché lo fanno?" Scrive il giornale, beh, non ha nominato Berlusconi, ma certo tutti pensavano si riferisse a Berlusconi, che peraltro in quel momento stava parlando poco distante. E per la verità anche il Corriere della Sera la vede così, il monito di Tettamanzi: "gli ingiusti si facciano giudicare". La parola Berlusconi manca nell'omelia, ma il severo riferimento all'attualità del cardinal Tettamanzi è innestato non avrebbe potuto essere più limpido ed esplicito, scrive Paolo Foschini sul Corriere della Sera. Sta di fatto che il momento politico, vi segnalo anche un'intervista a Pier Ferdinando Casini, il leader dell'UDC. In genere lunedì ci sono molte più interviste, questa volta ce n'è solo una di rilevante. A pagina 5 del Corriere, Casini dice "tornare subito alle urne, ma non credo a sante alleanze". Su Berlusconi, dopo 20 anni finalmente è riuscito a realizzare il suo desiderio contornarsi di una maggioranza aziendale in cui nessuno, non dico, dice di no, ma neanche ni. Una maggioranza di pigmei, così la definisce Casini. Riguardo al voto, l'opposizione deve mettersi alla prova. Sul terzo polo, dice Casini, ho i sondaggi che ci danno al 13-14%, ma paradossalmente quello che conta è superare l'8% in tutte le regioni. E poi l'appello anche, oltre che alla politica, mi auguro che scendano in campo personalità come Montezemolo e la Marcegaglia, che non possono essere visti come un piccio, un fastidio, ma come un'opportunità. E questo perché anche loro, con la loro presenza e il loro impegno, dimostrano che ormai il berlusconismo è un fenomeno politicamente finito. Casini dice, insomma, bisogna tornare subito alle urle, anche in autunno. Questo per quel che riguarda la politica e la giustizia. A proposito di politica, no, voglio segnalare anche che secondo il secolo XIX, è un retroscena, starebbe succedendo qualcosa all'interno della maggioranza per cercare di cambiare la legge elettorale. È un articolo interessante, a pagina 5, Giovanni Palombo. Carta sorpresa del Popolo della Libertà, una legge elettorale per annullare il terzo polo. Ci starebbero studiando al Senato un gruppo coordinato dal senatore Augello, Viespoli e Nespoli, questi tre senatori, ma suggerimenti anche dalla Camera, da Moffa, da Calderisi, sono tutti esperti di legge elettorale. L'obiettivo è quello, per esempio, di eliminare l'incertezza di Palazzo Madama dando il premio di maggioranza in entrambi i rami del Parlamento. L'obiettivo però fondamentale, magari inserendo le primarie per legge per tutti i partiti 3 mesi prima delle urne, in modo da pressare il Partito Democratico, costringerlo a scegliere un solo leader, invitando così Vendola alla contesa contro Bersani. L'obiettivo vero di questa nuova legge elettorale, che secondo il secolo XIX si starebbe studiando all'interno del Popolo della Libertà, è quello di in qualche modo annullare la forza politica del terzo polo. Questo per quel che riguarda la politica, mentre l'immigrazione fa registrare un altro giorno di tensione tra Italia e Francia. Cosa hanno fatto i francesi? Beh, hanno letteralmente bloccato la frontiera per 7 ore con tutti i treni a Ventimiglia, perché c'era il rischio che passassero anche treni con a bordo persone che evidentemente a Parigi non sono gradite. E allora 7 ore di blocco con tensioni, sit-in sui binari a Ventimiglia. C'è il ministro degli esteri Frattini, intervistato da Carmelo Lopapa su Repubblica, pagina 3, che dice: un tira e molla senza senso, è più incredulo che stupito. Il tono pacato del ministro degli esteri Frattini riesce a coprire a stento l'irritazione che in queste ore di tutto il governo italiano. Non abbiamo capito, dice Frattini, perché questo tira e molla dopo la decisione positiva da parte dell'Unione Europea di accettare i permessi temporanei di soggiorno rilasciati dall'Italia. Effettivamente, aggiungo io, alla fine si era trovato un compromesso, no? Questi permessi di soggiorno erano stati accettati, ma la Francia ieri ha deciso per 7 ore di bloccare, anche se ora dicono le autorità francesi minimizzando, un blocco temporaneo. D'accordo, dice Frattini, ma su quell'asse transitano decine di treni con migliaia di persone al giorno. Insomma, ogni interruzione crea comunque un danno alla circolazione, al turismo, all'economia. E in effetti a pagina 3 della Stampa c'è il racconto misto tra sia i potenziali, diciamo, quelli che hanno ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo, i tunisini che erano clandestini fino a pochi giorni fa, ora possono girare anche se non molto. E poi c'è anche l'ira dei turisti italiani, l'ira dei turisti russi. Massimo Numa racconta: a Ventimiglia sono state 7 ore di panico, mai vista una cosa simile, gente bloccata, anche francesi che dovevano tornare a Nizza, sono rimasti bloccati per ore e ore, si dovevano far venire a prendere la frontiera in auto da qualcuno. Insomma, una situazione davvero caotica creata da questo blocco, dicono temporaneo, i francesi sulla frontiera. Allora, nei giorni scorsi il ministro dell'economia Tremonti ha detto questa frase che ha innescato un dibattito. La frase classica: gli immigrati sono tutti occupati in Italia perché fanno i lavori che i giovani italiani non vogliono fare, invitando poi giovani quindi a, come dire, darsi un po' da fare anche lavori, quei lavori che sono stati trascurati per anni, lavori manuali per esempio. Beh, ieri gli ha risposto in qualche modo il ministro dell'interno Maroni, che a pagina 5 del Messaggero replica Tremonti: sul lavoro non sono d'accordo. Dice Maroni: non tutti gli immigrati, non è vero che lavorino tutti, e poi soprattutto non è vero che i giovani italiani non vogliono più fare i lavori si facevano anni fa. Anche per Repubblica, Maroni: anche i nostri giovani accettano impieghi umili. Tremonti sbaglia, non tutti gli immigrati lavorano. Insomma, questo ha innescato un dibattito interessante su quella che anche la Stampa definisce a pagina 9, sotto questo titolo, Maroni e Tremonti sul lavoro non si può generalizzare, la generazione 40 anni, si scrive flessibile ma si legge precario. Mentre Repubblica intervista una persona che dall'altro della sua esperienza, sempre un punto di osservazione molto molto interessante, vale a dire il sociologo fondatore del Censis, Giuseppe De Rita. Lo fa Roberto Mania: basta corsi di specializzazione, basta master, basta studiare cose inutili. Inizia così la chiacchierata con De Rita, il cui titolo dell'articolo è proprio questo: basta con gli studi inutili, meglio andare a imparare in fabbrica. Dice De Rita: nel 77 il Censis fece la prima ricerca finanziata dal Ministero degli Esteri sugli immigrati e lo dicemmo allora: ci sono lavori che gli italiani lasciano agli immigrati, i panettieri in Lombardia e in Veneto, i fonderisti in Emilia Romagna, i raccoglitori di pomodori nelle pianure, i lavoratori domestici nelle metropoli. Da allora il fenomeno è diventato di massa, c'è stata una divaricazione nel mercato del lavoro. Da una parte i nostri giovani hanno imboccato la strada della scolarizzazione progressiva e dall'altro gli immigrati hanno coperto i buchi lasciati liberi. Ed è qui, ecco, il vulnus secondo De Rita. Abbiamo detto ai nostri giovani: investi in istruzione che il lavoro verrà. Abbiamo pompato frequenze e titoli di studio. Colpa della liberalizzazione degli accessi universitari, colpa del 68, ma anche dei ragazzi e delle famiglie per i quali il titolo di studio è il simbolo di uno status. Beh, ma presidente, sta dicendo che studiare fa male? Sì, se si studiano cose che non servono. Abbiamo sacrificato gli istituti tecnici quando l'Italia si è costruita su di loro. Che ce ne facciamo di diplomati generici e dei corsi di laurea che non hanno alcuna ragione d'essere? La strategia della scolarizzazione ad oltranza è la stessa che ha portato i giovani nordafricani alla rivolta per la democrazia. Da noi però conduce solo al galleggiamento continuo finché ci saranno i pochi soldi dei nonni e dei padri. Abbiamo costruito un monumento al generico rifiutando ideologicamente la formazione finalizzata al lavoro. E dunque, qual è la via d'uscita? Non ci sono che due strade: o quella che suggerisce Tremonti, cioè di tornare al lavoro manuale, e al che Repubblica dice: lei lo proporrebbe a uno dei suoi figli o uno dei suoi nipoti? Io dico che se non vuoi tornare al lavoro manuale devi accettare la formazione sul posto di lavoro. Serve un grande piano nazionale per formare sul lavoro i giovani. Servono risorse pubbliche per incentivare i piccoli imprenditori a prendersi i precari e formarli. Insomma, interessante questo dibattito sul mondo del lavoro, innescato dalle parole di Tremonti e poi quelle di Maroni su il rapporto tra i giovani e il lavoro. Riguardo sempre all'economia, io voglio segnalare quello che è il monito del governatore di Banca Italia Draghi a Washington, dopo dove si riunisce anche la Banca Mondiale. Draghi, e lo sottolineano sia Corriere che Repubblica, ha manifestato una certa fiducia nella ripresa. Ma attenzione alla povertà crescente, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, perché per una tendenza che si continua a registrare, quella dell'aumento del prezzo delle materie prime. Tanto che la previsione è quella che altri 44 milioni di individui, no, non è una previsione, è una certezza, cioè negli ultimi mesi altri 44 milioni di individui sono scivolati nella povertà per colpa dei rincari del cibo. E lo dico con attenzione perché molti analisti dicono che questa è una delle prime motivazioni per le quali poi sono scoppiate tutte quelle rivolte che abbiamo visto nel mondo, nel Maghreb, ma anche nel mondo arabo, e che hanno portato anche a cambi di regime, a cambi politici epocali. Oh, che cosa c'è da segnalare ancora? Che ora dobbiamo chiudere, Peter? Io non mi sono perso tutto. Eccolo qui, c'è ancora un paio di minuti di tempo. Allora, intanto la segnalazione di che cosa? Di un boicottaggio, il boicottaggio del film Habemus Papam, che ieri il vaticanista dell'agenzia AGI ha lanciato in una lettera ad Avvenire. Pare che però non sia stato raccolto da molto. Vi segnalo per esempio Filippo Di Giacomo in un commento sul Messaggero, che dice: è un errore boicottare il Papa di Moretti, film che io peraltro non ho visto, ma comunque già si litiga e già si dibatte su questo profilo del Papa di Moretti. Anche Giuliano Ferrara, intervistato dal Corriere, che vi dedica mezza pagina, lettera su Avvenire contro Moretti. Giuliano Ferrara dice: ma come? La Chiesa non è mai stata così fragile nell'opinione internazionale, ora che esce un film che rappresenta un Papa umano, cardinali giocosi, una lezione di tolleranza e ironia, lo si vuole boicottare? Moretti ieri con la sua ironia sul intervistato da Fazio ha detto vabbè potete pure boicottarlo, prima però andate a vederlo. Abbastanza simpatico. Due segnalazioni per concludere. Sul secolo XIX è stato venduto il piedater più caro del mondo. Volete sapere, a Londra è stato sul One Hyde Park. Ne avevamo già parlato di questo grattacielo esclusivo dove si vendono appartamenti che non sono proprio per le tasche di tutti, a meno nelle mie no, non so se quelle di Peter Bescapè ne sono nelle sue tasche. Comunque è stato venduto, pare, a un magnate russo per 154 milioni di euro. È stato venduto questo appartamento, che pare abbia bisogno anche di una qualche intervento di ristrutturazione per 68 milioni di euro. Insomma, 68 milioni di euro di lavori. E poi, ormai è un po' così, chiudo anche con la Gazzetta dello Sport. È stato un weekend così, flop per la Ferrari. E infatti la Ferrari fa flop, questo è il titolo in alto. Poi c'è Milan 6 da scudetto. Milan ha vinto, le inseguitrici più strette pare abbiano perso. Colpaccio dell'Udinese, il Napoli crolla. Vabbè, magari l'anno prossimo sarà un po' più combattuta, chi lo sa. In ogni caso, Milan 6 da scudetto, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport con cui concludo. Voglio segnalarvi, alle 8:20 ci sarà il ministro Rotondi, nostro ospite per l'intervista, e poi il canone della RAI, di questo parliamo nel nostro sondaggio. La proposta è: Sky e Mediaset forniscano le liste dei loro abbonati per contrastare l'evasione di questa tassa odiata dagli italiani. Che ne pensate? È il sondaggio, ora il GR.